Il punto di Stefano Folli. Ve lo immaginate Obama che tifa per un candidato del Partito Repubblicano? Oppure in passato De Gaulle che elogiava in pubblico Mitterrand? O in Inghilterra la Thatcher che sosteneva un candidato alle primarie del Partito Laburista? Da noi accade ed è una conferma di quanto sia stravagante il caso italiano. Matteo Renzi ha il diritto di chiedere i voti dei delusi da Berlusconi, ma qui siamo su un altro piano. È Berlusconi stesso che fa una dichiarazione di voto per il sindaco di Firenze. È davvero curioso. La logica, è chiaro, è quella di accendere una mina, un'altra, nel Partito Democratico che si sta dilaniando. E Berlusconi, per quel che vale, punta a gettare scompiglio nel campo avversario e a destabilizzare al massimo il percorso delle primarie. Poi, dal suo punto di vista, che vinca pure Bersani, perché in termini elettorali Renzi sarebbe una minaccia insidiosa per l'elettorato del centrodestra, assai più di Bersani. A questo punto però il sindaco di Firenze dovrà prendere le sue misure, non gli conviene certo che si dica e si scriva che è lui il candidato preferito del grande nemico.